Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Il nuovo appuntamento della domenica, che ormai nuovo non è più, perché ormai siamo qui da qualche settimana, se avete imparato a conoscerci, ad ascoltarci. Benvenuti nuovamente da Master Nick, in compagnia di un trio che settimana scorsa era un duo, quindi si è ampliato. E visto che la settimana scorsa abbiamo intervistato le componenti del duo ed è diventato un trio, dobbiamo capire di più, come dire, della nuova arrivata e far provare anche a lei le emozioni, l'ebbrezza dello studio radiofonico. Quindi, come si suol fare, direi di introdurla dalla nostra spalla partner, che è anche colei buonasera, che ha fatto in modo che ha fatto in modo che la nuova ospite fosse qui. Quindi vai, Modi Sanremo. Benissimo. 58. Stasera ho portato un'amica, bella, una bella figa, no? Beh, parte elegante, parte elegante, sempre gentile. Sempre molto gentile, insomma, composta e sobria. Ti chiami? Antonella. E vieni da? Vengo dalla Sicilia, ma vivo a Brescia da 15 anni. Wow, un po' però si sente ancora, è un po' molto di siculinità. Quello penso che non lo perderò mai. No, forse già dipende, insomma, poi dipende da che frequentazioni hai. Ma in generale gente bresciana. Chi credo. Frequenti? Chi frequenti? Quindi, oltre a noi? Comunque ho a che cioè, modo. È strano perché Valeria. Allora forse sei tu immune. Sì, sei esatto. Immune a tutto questo. Perché esatto. Io ad esempio una cosa che racconto sempre ai miei amici, soprattutto in Emilia Romagna: se dovessi fare una settimana di vacanze in Emilia Romagna, torno e prendo l'accento emiliano. Ah, okay. Cioè con gli altri mi capita raramente. L'emiliano non so perché mi si attacca addosso. Eppure quando vado in Sicilia mi dicono che parlo bresciano, quindi penso un po'. Sì. È ambiguo. L'emiliano si attacca addosso, è un po' ambiguo però. No, è il dialetto, scusami, la parlata emiliana, il linguaggio emiliano. No, non per quello. L'emiliano, portiamo anche lui in radio. No, com'è questo emiliano? Un emiliano, c'è un emiliano. Dobbiamo portarlo domenica prossima. Un bolognese. Bolognese, bene. Antonella, e cosa ti ha portato qui a Brescia? Il lavoro. 15 anni fa? Lavoro. E che banale chiederti se ti manca la Sicilia, perché è difficile lasciarla. Tantissimo, mi manca il mare soprattutto. Vabbè, il clima, però c'è da dire che ormai le cose sono cambiate anche qua. C'è un clima bello anche qua e si è un po' ribaltato tutto. Beh, dai, però il mare sì, tantissimo, quello purtroppo qui non posso averlo. Beh, ti noleggiamo una vasca da bagno e poi idro però. No, vasca da bagno con due o tre bacinelle di mare siciliano, andiamo giù a prenderlo. Te lo portiamo su. Va lui a prenderlo. No, vai, parti. Andiamo a prenderti con due bacinelle in Sicilia del mare, okay. Le riempiamo, le portiamo su e te le mettiamo nella vasca. Va bene. Così parti adesso, vai che ce la puoi fare. Esatto, con prima di domani mattina ancora lavori domani. Io? Sì, che ora te lo vorrei? Io inizio presto domani mattina. Che ora? 8:30. Dai, parti, ce la puoi fare. Ce la possiamo fare, A proposito, approfittiamo di questo spunto che mi ha dato la mia spalla di mezzo. Perché spalla sinistra? Perché di mezzo? Boh, così, perché destra e sinistra, già le ho. Spalla di mezzo, come la terra di mezzo, giustamente. Perché porta equilibrio, vedi? Quindi certo, sta in mezzo. Sì. Dicevo, grazie per lo spunto. I trasporti che ci sono in Sicilia, cioè com'è che ci si può arrivare adesso? C'è l'aereo? Sì, penso di sì. La bicicletta. No, poi buoi, il carro con i buoi. No, era una domanda. No, era una domanda seria, cioè nel senso come che collegamenti ci sono per arrivare. A nuoto. Aereo da dove? Bergamo, Milano, Verona. Ah, quindi dai, è servitissima. Più o meno un'ora e mezza, un'ora e quaranta. È come poco meno di Londra, come andare in Inghilterra praticamente. Un'ora e 30. Beh, ma c'è anche low cost. C'è il fuso orario però, No, non c'è il fuso orario, quello lo sapevo, ne ero informato. Dicevo, ci sono anche dei low cost, bisogna prenotare con anticipo. Te li danno come low cost, ma in realtà sono quelli di linea. Invece treno è ancora attraversata, transatlantica. Esatto. Ma anche in macchina l'ho fatto un paio di volte all'inizio quando sono venuta su, è pesante, molto. Ma Genova o? Cioè, una volta da Genova prendendo la nave fino a Palermo, invece due volte, anzi tre volte con la macchina da Brescia fino a giù. Quella è lunga. Sì, molto. Quella forse è lunga. 12-13 ore. Quella è lunga veramente. Sì, poi c'è il trattino comunque di traghetto, però lì si perde tempo. È lunga. Bene. E cosa ti ha portato a conoscere queste due belle? Io conosco raviolone, gnoccolone, patatone. Tramite una mia collega Valeria ho conosciuto Katia. Sì. Quindi è sempre tutto un tramite, tutto un tramite. Sì. Dove ti è andata peggio con Valeria, con Katia? Oh, no, è andata benissimo stasera. Esatto, vorrei bene. Dire che è stata la sua prima volta e vorrei chiederle come è ambientata al massimo. Stata l'impressione. Ho provato di tutto. Tra nonni. Hai provato di tutto? Cosa? Noi dove eravamo? Infatti, interessante questa, ma questa prova. Quando avete provi ragione. Di tutto, no? Mi spiego meglio. Tra ballare in mezzo a gente fantastica, a cantare. Bello, ti è piaciuta la gente? Sì, sì, molto, molto. Bellissima. Cantare, provare questa emozione di cantare in una sala prove. E adesso ad essere in radio, cioè. Hai visto? E tu hai fatto? E chi te lo fa tornare? Esatto. Tornare in Sicilia? Esatto. No, Anni come non vado a insegnare, cambio mestiere. Sì, anche, anche. Vuoi fare l'artista? L'artista, esatto. Anche tu. No, dicevo, in Sicilia mica li trovi sti posti fatti così, no? No, esistono anche, sì. Ecco, basta. No, cioè, dobbiamo. Niente, mi ha smontato infatti, tutta un'idea di vita e di sogni. In sono stato a Cefalù in vacanza, ma 10 giorni, roba da poco. Cioè, meglio, sono stato a Cefalù, ho visto delle cose. Come hai fatto a Cefalù? Cosa hai fatto a Cefalù? No, vacanza con i miei, quindi non è che abbia fatto 12 sei anni. Sicuro? Sì, sì, 12-13 anni. No, non tanto perché non ricordo, perché mi è sembrato di vedere delle porzioni di spiaggia, ma c'era troppa gente sopra, e quindi le ho solo immaginate, perché erano così. L'altro lato della Sicilia, sono la parte di Catania. No, ok. No, però è vero che la spiaggia è non affollatissima di più. Sì, ma anche qua se vai al lago trovi. Sì, quello sì. No, adesso quello sì. Però ho provato ad andare in spiaggia per 10 giorni e non c'è stato modo. Sì, no, poteva esserci del cemento sotto che non me ne sarei accorto, perché veramente coprivano. Camminava sulle persone praticamente. No, esatto, coprivano ogni millimetro possibile. Come... Però le 2 o 3 giornate che siamo andati via scogli a provare delle spiaggette, un po' un incanto. No, veramente un incanto. Come va il turismo giù? Sì, ce n'è ancora. Sì, parecchio. Dove va lei? Dove va lei? C'è pieno, cioè, scusa. Sì, lei ha una bella ragazza. Scia. Come il pifferaio magico. Dove... Non l'ho pagata. Sì, sicura? Lei è come il pifferaio magico. Dove si muove, c'ha uno stuolo, una scia di... No, è topi. Uno stuolo, una scia di turisti che la seguono. Sì, fascino, ragazzi. Però, turisticamente parlando, cos'è che va? Che funziona? Più o meno allora, tutte le città o c'è qualcosa che... No, allora, lì va bene, bene o male, in quasi tutte le città, solo che hanno la pecca di valorizzare poco quello che si ha. Ok. E quindi si può fare molto di più di quello che si fa già. Ok. Quello è un difetto di tutta l'Italia, secondo me, valorizzare poco le bellezze artistiche. Sì, o più che quello, secondo me il difetto vero è guardare sempre a quello che manca rispetto, come diceva lei, a valorizzare quello che si ha. Certo. Cioè, per dire, i siciliani... Ma cosa manca in Italia? Abbiamo tutto. No, appunto... No, dico, ogni zona guarda troppo quello che le manca e che altri hanno rispetto a valorizzare quello che hanno. Cioè, banalmente, i siciliani con tutte le bellezze che hanno, me li immagino dire, però se avessimo il lago, se avessimo... Ah, capito? Il lago sì, gli manca proprio. Dico, no, una banalità, però quella manca. È la mentalità, un po' la mentalità. Più che altro è mantenere quello, cioè, curato quello che si ha. Purtroppo noi giù abbiamo questa cosa di non riuscire a curare bene... le zone paesaggistiche che comunque già la natura ci offre. Purtroppo è vero. È questo. Purtroppo è vero. No, anche perché ci sono delle zone bellissime. Ma tipo da Agrigento, cos'è? Agrigento, dai, c'è cioè la storia. Ma è lontano? No, non è lontano. Perché mi ricordo che avevo fatto la gita ad Agrigento, sì. È spettacolare. È quella. Una festa dei mandorli in fiore, giusto? Agrigento, quello è Agrigento, poi ci andiamo anche a Noto, il mandorlo in fiore. Comunque la Sicilia la puoi circumnavigare. Sì, assolutamente. E ti bastano una settimana, Sì, quello sì. Perché prossimo viaggio allora. Le cose da vedere sono tante, per carità, però se vuoi andare a vedere le cose principali, una settimana ti basta, facendo tappa nelle zone più importanti. Quindi ascoltatori del convento, se avete bisogno di una guida turistica per la Sicilia, contattate Antonella al 348-55-97-232 per guide locali, insomma coppie, gruppi, single, insomma accompagna tutti a vedere single, le bellezze siciliane. Single, poi li selezioniamo. Esatto, a vedere le bellezze siciliane. Prenotatevi su www.sonantonellaeviaccompagnoinsicilia.com, scrivetele, all'indirizzo è info@sonantonellaeviaccompagnoinsicilia.it e lei vi risponderà nel tempo di 24 ore e vi creerà un percorso ad hoc, un tour ad hoc. Io la più bella immagine, più bel ricordo che ho della Sicilia sono quelli che al semaforo rosso ti suonano perché non passi. Ah, bello. È un ricordo bellissimo. Mi ricordo di che era. Sì, e sì. Cosa ti dicono poi? No, che imprecazioni? Voglio sapere qualche imprecazione. No, io non lo so. Dai, io siciliano. Erano dall'Antonella, dai. Ah, okay. Minchia, muoviti. Perché io mi ricordo che se hai la sfiga di essere il primo al semaforo. Esatto. Ed è rosso, cioè, allora se è verde ti suonano. Eri là. Comunque. No, se sei primo, se sei verde ti suonano perché non parti e più o meno hanno ragione. Se è arancione ti suonano perché dovevi passare, ma la bellezza è che ti suonano pure se è rosso perché non sei passato. È un po' come quella canzone. Tu sei lì che non, se sei ricco ti tirano le pietre. Bravo, bravo. Tu sei lì inerme e dici ok, che faccio? Perché però da una parte la multa non la vuoi prendere, dall'altra c'hai una colonna di macchine che ti suonano e ti tamponano. Però quello è un bel ricordo. Bene, direi di chiudere. Quello del tamponamento, fantastico, come ricordo. Direi di chiudere questo. Però guarda, non mi è mai capitato di fare incidenti giù, l'ho fatto a Brescia. Davvero? Via che bresciani non sanno guidare, giù sono dei caffoni. Può essere. Allora direi di chiudere questo intervento nel migliore dei modi, sfruttando quindi Antonella, prendendo il nostro pubblico per la gola con un menù siciliano tipo dall'antipasto al dolce, quello proprio da non perdere, delle grandi occasioni. Vai. Allora, come antipasto abbiamo una valanga di roba, cioè... No, ma io voglio una portata, un antipasto, un primo, un secondo, un dolce da non perdere, proprio il menù tipicissimo. Pesce o carne? Pesce. Allora, come antipasto ti posso fare un sauté di cozze. Mamma mia, ho già fame? E come un primo, pasta, spaghetti alle vongole. Benissimo, che giustamente dopo le cozze per l'antipasto bisogna alternare, ci vuole la vongola. Va bene anche se vuoi due primi, ci mettiamo dentro, non pasta so, con le sarde? Pasta con le sarde non oppure anche le farfalle con i gamberetti. Buono, o... sì, per me è un secondo, pesce spada. Tonno, spada. Fresco, pescato sul momento. Ancora lì che. Sì. Ancora lì che, dolce, che si squaccia. La pasta di mandorla. Pasta di mandorla, oppure la cassata siciliana. Allora, vino nero d'avola. Nero d'avola. Però è rosso, va sulla carne, quindi lo zibibbo. Zibibbo, assolutamente sì. Anche una donna fugata che è siciliana. Donna fugata è tanta roba. Anche un bel rie come passito. Bene, e detto questo, buon appetito, come direbbe Antonella Clerici. Grazie alle nostre amiche, grazie alla nostra siciliana. Grazie, Master. A te, alla mia spalla di mezzo, la Katia. Ringraziamo anche il fantasma di Valeria. Che ciao, Vale, ti voglio tanto bene. È qui insieme a noi. Sei mancata tantissimo. E ci pensa sempre, però c'è vicino con la mente. Con l'anima e col cuore soprattutto. Allora Antonella, ci vediamo presto e ti aspettiamo per altre mirabolanti racconti siciliani e un po' di pasta. Grazie a te. Ciao. Ciao.